Abbiamo circa 4 milioni di euro da recuperare come comune. 4 milioni dovuti da una parte alla Tari e una parte ad altre cose non ancora ben identificate, nel senso che non sono state proprio completamente chiare. Questo ammanco ovviamente obbliga il comune a chiudere determinati servizi, non solo alla biblioteca ragazzi, noi ne abbiamo due, abbiamo la biblioteca adulti e la biblioteca ragazzi, e anche due sezioni della scuola materna, più pare anche una della scuola nido, quindi non è una cosa da poco, cioè abbiamo un taglio veramente considerevole. Considera che tutti gli anni debbano recuperare 1.100.000 circa dal bilancio, quindi avremo per 10 anni questa specie di tagliola che in qualche modo dovrà essere il nuovo modo di fare il bilancio. Quali sono le peculiarità della biblioteca ragazzi? Allora, la Biblioteca Ragazzi è stata creata per dare più spazio al modo di affrontare una biblioteca da parte dei bambini, soprattutto. Cioè, la convivenza tra bambini e adulti è sempre abbastanza difficile, perché chi deve studiare come studente universitario o di altro genere non può molto convivere con bambini nello stesso stabile. Quindi noi avevamo pensato a questa suddivisione. Questa suddivisione è stata fatta, questo nel 2004. E oltre a questo, la biblioteca di fatto aveva una grandissima attività con le scuole del territorio e non solo. Coprivamo, grosso modo, già poco prima del 2004, dalle scuole materne fino alle medie. E questo ovviamente comportava che gli spazi molto spesso erano adibiti proprio a quegli incontri e ai progetti che man mano si facevano con le insegnanti. Nuovi spazi, come dire, queste attività non si riuscirebbero a fare? Assolutamente no, perché adesso è su un solo piano la biblioteca Luzzi, quindi intanto dovrebbero portare 15.000 volumi da una parte all'altra, su già 20.000 più o meno che sono in possesso della biblioteca adulti, e secondo, debbono isolare in qualche modo per le attività con le scuole, perché sennò la gente non può andare assolutamente a studiare. Immaginati tu una classe, per quanto possa essere silenziosa, eccetera, eccetera, però con loro devi interagire, e interagire vuol dire anche un po' di caos. Oltretutto, noi utilizzavamo lo spazio della biblioteca ragazzi anche per allestimenti proprio come spettacoli. Vabbè, io ho un bel po' di esperienza nel teatro di figura e quindi noi utilizzavamo queste tecniche. Quindi la biblioteca veniva a volte durante il Natale, per esempio, veniva completamente stravolta. Facevamo delle ambientazioni particolari. Avevamo anche molta, molta attività durante l'anno, dovevo calcolare grosso modo 250 incontri all'anno con le classi. Tutte queste attività, questo patrimonio rischia di essere disperso ed è per questo che c'è una petizione. Ho visto che ha già raggiunto 3.500 firme, che per un comune, insomma, piccolino come San Pietro non sono poche. No, sono tante, ma questo anche perché appunto la maggior parte dei ragazzi che adesso vive qui di fatto non sono passati attraverso la biblioteca ragazzi, per una cosa o per un'altra. Avevamo anche le gare di lettura, facevamo spettacoli con le medie ogni anno. Per fare una cosa di questo genere hai bisogno di spazi che siano tanti, perché sennò si va poco in là. Di fronte a questa risposta anche popolare, l'amministrazione ha detto qualcosa? C'è stato un incontro circa una settimana fa in cui ci pensavano e vedevano quello che si poteva fare. C'erano un po' tutti all'incontro. Io ho qualche perplessità, perché comunque in qualche modo devono rientrare di quello che è stato l'ammanco. E c'è una cosa da dire: che l'Areno Galliera, il ruolo dell'Areno Galliera dovrebbe essere un ruolo anche di garanzia per le biblioteche. Nel momento in cui uno spazio viene meno, addirittura chiuso, come in questo caso, in teoria l'Areno Galliera dovrebbe intervenire, ma all'Areno Galliera il nostro comune ha un bel debito. Purtroppo per le biblioteche, come noi all'inizio si chiamavano biblioteche associate, l'idea nostra era quella di creare un'istituzione delle biblioteche che avrebbe garantito praticamente una gestione collettiva che diventava come un'unica biblioteca con tanti sportelli. Purtroppo questo non è stato fatto, perché nel frattempo si sono verificate alcune scelte abbastanza assurde, tipo appunto quello del rendere la commissione dei bibliotecari meno importante che non i dirigenti. Cioè, la scelta era quella comunque di dare la responsabilità ai singoli dirigenti, soprattutto i dirigenti della Reno Galliera. Quindi di fatto questa commissione non c'è, e soprattutto non esiste un istituto.